24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Adesso farò un master in bersanese. Eccoci qua, sono le 6:33 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo pronti e siamo sempre ad essere sempre più allo zoo, allo zoo con tacchini e quant'altro. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, se volete dirci la vostra, c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Alpino, sempre lì in console, si dice ancora console o dal 72 questa parola, in regia, allora il nostro Alpino Peter Bescapè, eccolo lì, siamo pronti a aprire il nostro Parlamento, eccoci qua, la sala cinesca c'è, la bella Nicole, forza, gente, accorrete al Parlamento, abbiamo barman generosi come Santa, questi Claus sono i Two Fingers, Paola Saluzzi, buongiorno, dove sei Paola Saluzzi? Non c'è, basta, è svenuta la Saluzzi, è svenuta, basta chiamare Paola Saluzzi, boom, e cade giù. Luca Dini non si trova, è a Parigi. Sono da solo, mi sento nudo in questo momento. Chi c'è? Paola, dove sei? Non mi sente niente. Nessuno che mi sente. E allora apriamo il Parlamento. Non c'è nessuno, oggi non faccio cappucci, non faccio caffè e non ci sono brioche, niente da dare. Allora. Oh, ma avete sentito la proposta di Michele Santoro? Ce l'ho qua, la proposta di Michele Santoro per il governo, eccola qua. Chi è arrivato? Eccomi qua, dove sei? Era crollato tutto, mi sono sentita un attimo, dico, ma come il Parlamento mi crolla così? Ma infatti è crollato il Parlamento. Possiamo dirlo. Buongiorno Alessandro, buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Ma direttore de che? Luca Dini a Parigi non si trova, non si sa. Sarà, non lo so. Avrà fatto le folie Bergère. Io non volevo dirlo, no, per carità. Assolutamente, persona seria, grazie a te. Allora, perché le persone serie non possono andare... No, le persone serie sono quelle che fanno più danni, grazie al cielo, ribadisco, ecco. Perché... ci siamo pure scocciati di essere sempre tutti azzimati, tirati, mi sembra con giusto. La riga. Insomma, Parlamento, buongiorno. Buongiorno. È l'emozione del mercoledì questa. Allora, devo dire una cosa. Tu l'hai letta la proposta di governo di Michele Santoro? Perché ormai qui ognuno può dire quello che vuole. Io infatti ieri ho detto ai miei ministri, Franco Baresi, ministro alla difesa. Franco, avevo dubbi. Ci arrivi anche tu, Franco Baresi, te lo ricordi anche tu. Non avevo dubbi. A sto punto mi sono lanciato. La casa Casalinga di Voghera, ministro all'economia, voglio assolutamente. Poi vorrei Gérard Depardieu alle finanze, perché quello. E poi Schettino ai trasporti. Agricoltura, Depardieu. Francesco Schettino, ministro dei trasporti, come lo vedi? Assolutamente no. Possiamo andare avanti. No, ma sì. la verità, Alessandro, che questo anche i nostri ascoltatori lo capiranno e lo sapranno, si è scatenata una lista personale. Certo. Ognuno, cioè ieri nella redazione di Sky TG24 pomeriggio abbiamo detto al nostro caporedattore Giovanna Lio, abbiamo detto Giovanna, come minimo adesso stiliamo anche noi la nostra lista. È chiaro. Non è un modo per prendere in giro una situazione difficile, per carità, la situazione è difficile, ma come si fa a proporre ministro alla sanità Gino Strada, ministro all'istruzione Milena Gabanelli, una collega bravissima che tutti stiamo, ma ministro all'istruzione cosa c'entra? Faccia la giornalista Milena Gabanelli, oppure Gino Strada, faccia il medico emergency, una cosa straordinaria, ma che c'entra il ministro alla sanità? Ma perché da quando ieri su Twitter, insomma noi siamo dei twitteroli venendo da Roma, dico così, scatenati, insomma si è giustamente vista, ciao sono Francesco, sì. Ho 30 anni, vedo sempre Grey's Anatomy, voglio fare il ministro della salute, giustamente si sono aperte, come dire, le porte a qualsiasi tipo di considerazione. La cosa più difficile è immaginare invece che cosa far accadere veramente, cioè come far scattare un meccanismo che porti ad un governo che poi permetta di cambiare i governi, non sì, so come dire, sì, no, no, no, poi è chiaro, di operare i cambi. Ma bisogna però vedere come si uscirà da questa situazione. Pare che ieri, allora, io per esempio Alessandro Milan lo metterei automaticamente sì, presidente del Consiglio. Perfetto, tu lo sai, perfetto. Per così, non dire già Quirinale, allora, con ma poteri. È fantastico. crolla l'Italia nel giro di 3 mesi, ma sai che 3 mesi? Spettacolo! Sono i 3 mesi più incredibili della storia della Repubblica, insomma. Però, secondo me funzionerebbe tutto, ma andiamo avanti. Vabbè, comunque te lo faccio risentire perché l'hai chiamato in causa. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione. I temi che mi stanno cari sono tutela degli animali, la città dello Stato, che sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Questo secondo me è il migliore, no? Prendi anche gli applausi, sono vegano, non si sa se per il vegano o per il disiscritto. Mi è piaciuto molto, e poi però anche quello che ha detto, mi occupo di biomasse e dobbiamo controllare il nostro ego. Biomasse. No, più che sulle biomasse, è sul nostro ego che sono rimasta un attimo. No, esatto, il ministro, cosa fa? Il ministro non so, dell'ego, delle pari opportunità, non lo so. Delle pari opportunità. No, certo. Allora, c'è un nuovo mondo che è entrato all'interno di un mondo e questo va benissimo. C'è un mondo globale, se vogliamo, più rotondo, cioè sì, quello nostro, nel nostro paese, che va curato in frettissima. Cioè io più ogni giorno mi è diventata un'ambientalista, cosa sei? No, il mondo vuol dire il governo di un paese. Ah, ecco appunto. Il governo di un paese, no, non sono ambientalista, per carità, lo sono, nel senso, nei limiti del mio essere, purtroppo una persona fallibile sotto tanti punti di vista, è anche questo. Ma c'è un governo che va fatto di corsa. Ma con chi, con che voti? Oggi al Partito Democratico c'è una direzione dove si preannunciano, però qua uscirà qualcosa. Ma che cosa? Voglio dire, pare che, secondo il Corriere della Sera, notizia di oggi, Mario Monti è certo che Bersani fallirà, ma non perché Bersani, perché non ci sono i numeri in Parlamento che Bersani fallirà, e quindi si pensa già a un'altra cosa, mentre Berlusconi è lì che dice: chiamo Bersani o non chiamo Bersani? Chiamo Bersani o no? È tentato di proporre l'accordone, mentre Renzi, si sa, è andato da Monti a Palazzo Chigi, ma sai l'indiscrezione che è uscita, cara Paola? È andato lì e pare che abbia detto: qua diamo una tinteggiata di bianco, qui metto i bambini, mia moglie si stabilisce di là, ci vediamo tra un 6 mesi, sì, tutto a posto, ha chiamato già insomma, la ditta che da Bergamo, che perché arrivano sempre da Bergamo, almeno qui nel nord Italia, li ha chiamati e arriveranno a sistemare tutto. Una buona battuta l'ha fatta ieri, come sempre, Ermete Realazzi, quando gli ho detto di cosa avranno parlato, perché era appena uscito Renzi, anzi doveva ancora uscire, mi ha guardato con aria seria e mi fa: non credo abbiano parlato del maggio fiorentino. No. A proposito di Renzi, lo sentiamo un attimo, ieri ha fatto un'intervista a Ballarò, per il resto è sempre silente, qui lo attendiamo, abbiamo i tappeti rossi, quando vuole Matteo Renzi sarà nostro ospite. Sentite cosa... la metafora dell'ultimo anno, questa qua, sentite. Siccome però a Bersani gli ho detto in faccia: io non sono uno di quelli che accoltella il giorno dopo, come fanno in tanti nella politica. Abbiamo già troppi giaguari, tacchini, per permetterci anche le iene del giorno dopo. Quindi io non sarò uno di quelli che dice: ah, ve l'avevo detto. Eccolo qua. A noi è venuto in mente la nostra Miriam Lucchetti, è venuto in mente sempre il Benigni di Johnny Stecchino. Allora, il leone! Tacchino, cos'è? Quella è la gallina. Il tacchino, ho detto, forza. Chi è il tacchino? Chi lo fa il tacchino? Forza! Paola Saluzzi, il tacchino, effettivamente, come diavolo fa sto tacchino? Ma noi, io quando ho deciso di metterlo nella sigla, non pensavo che diventasse... Il tacchino è difficile, è tanto buono, poverino, è tanto buono, adesso quello vegano ce l'avrà con me, però oggettivamente, insomma, è tanto buono da mangiare, per chi lo vuole mangiare, sì, ma il verso del tacchino è difficile, non ho mai capito se sia un cucurucù o qualcos'altro. Un glu, però il giorno che ti presenterai ci farai il verso del tacchino, sarebbe straordinario. No, tra l'altro devo dire una cosa, ecco, vedi i messaggi. Gino Strada mi scrive, un ascoltatore, gestisce Emergency in modo eccellente, con pochi soldi ottiene l'eccellenza, le risatine se le tenga per gli altri. Ma chi dice che Gino Strada non sia una persona in gamba? Ma poi, per carità, Gino Strada, Emergency ha anche un legame con Sesto San Giovanni, è nata Sesto San Giovanni, io sono di Sesto San Giovanni, ma ci mancherebbe altro che sparo contro Emergency. Ma il concetto è che c'entra Ministro della Sanità, questo è il punto. No, detto questo, però, Paola, c'è Luca Dini? Luca, buongiorno, direttore, ciao. Buongiorno. Il direttore, esatto, si è affacciato all'albergo di Parigi. Dove sei, direttore? Sono a Parigi. A Parigi. Sì. E che dicono a Parigi di Beppe Grillo? Ma che beato. Sono tutti curiosi, non fanno che chiedermi che cosa succede in Italia, cosa succede. È il bello che non hai risposte. Esatto, dico, guardate, richiamate, cioè chiedetemi fra un pochino. Devi dire, chiamate tra sei mesi, Monsieur Renzi. Ecco, Monsieur Renzi. Ieri è andato a Palazzo Chigi, non so se hai visto, dicevamo qua che ha preso le misure per tinteggiare, mettere una libreria qui, così tra sei mesi quando arriva è tutto a posto. Esatto. Potrebbe fare questo, no, però è interessante, cioè, capire effettivamente c'è attenzione su quello che sta succedendo. Moltissima curiosità, cioè una cosa pazzesca, e tutti mi chiedono ma veramente è andata così? Beh, sì. Cioè tutti si chiedono ma come, è un comico, lo conoscevano poi Beppe Grillo in Francia, chi lo sa prima come comico? No, in realtà no, però sono tutti sorpresi, devo dire, cioè, la cosa che mi chiedono tutti, ma veramente Berlusconi ha preso di nuovo tutti quei voti? Ah, ecco, questa è la vera. Sì. No, non iniziamo. La vera domanda è quella. Non iniziamo con la storia, no, che già in Germania hanno chiesto, hanno detto i due clown, è successo no, il putiferio. Però, insomma, eccoci qua. Allora, noi che dire, Luca, adesso noi dobbiamo andare subito a sentire le informazioni sul traffico, perché ci siamo collegati un po' in ritardo. Poi, vi dico solo una cosa, attenzione alla segreteria telefonica, cara Paola, c'è un messaggio per te. No! C'è un messaggio per te. È un po' anche mezzo in abruzzese. Io ho chiamato anche Crociani per farmelo tradurre, che lui con l'Abruzzo. Però se ha capito. Vabbè, comunque. Comunque il traffico e poi la segreteria, rientriamo. 24 mattino. Con estate, santé, fiscalité, solidarietà, fraternité, libertà, egalità, travaillé. Chi ci sta? Ci sta. Possiamo mica qui vedere risuscitare quel principe gattopardo di Grillo o accarezzare il giaguaro bello e smacchiato e poi far volare il passerotto sul tetto che quel grillo parlante sotto mentite spoglie lo spennacchia e se lo becca e noi rimaniamo solamente con il piccione in mano. Ormai siamo diventati tutti vecchi, la terra è diventata vecchia. Vedi, il Papa è diventato vecchio e si ritira, la regina è diventata vecchia e si caga sotto. È questo il vero messaggio che hanno lasciato i Maya. Ormai siamo al punto del declino, ormai è finita, ragazzi. Ci salvi chi può. Purtroppo è così che doveva andare. Arrivederci a tutti, forse in un altro mondo. Ciao, ciao. Milan, prima ci volevano 4 Sicilia, mo ce ne vogliono due 4 Sicilia e una panca. E lo Presidente della Repubblica lo deve fare, quella signora che si chiama Paola, ma non mi si accorda il cognome, e lo mercoledì va pure a parlare alla radio. Buongiorno a tutti dall'Abruzzo. Ora che sono cambiati i politici, almeno spero, non potrebbero anche cambiare i giornalisti? Sono molto incazzato perché continuo a sentire quella mummia di Bersani che dice che è favorevole al finanziamento pubblico ai partiti. Gli italiani hanno già votato contro. Basta finanziamento, basta! Visto che il sommelier si occuperà di agricoltura, io siccome sono tassista, mi vorrei autocandidare, autonominare ministro dei trasporti. Eccoci qua, questa è la segreteria, effettivamente il tassista ministro dei trasporti. Siamo con Luca Dini e con Paola che non sa il cognome, quella che parla alla radio lì il mercoledì, Presidente della Repubblica. Cioè, ma è la prima volta che mi capita nella vita e credo forse anche l'ultima, sì. È emozionante. Ma, sì, ma io dico, ma d'altronde Luca Dini, qua ieri Santoro ha fatto il suo governo, ha detto vorrebbe Gino Strada alla sanità, la Gabanelli all'istruzione. Io non lo so, per cui è nato il gioco. D'altronde se abbiamo Dario Fo presentato come Presidente della Repubblica da Beppe Grillo, adesso Paola Saluzzi, tu no, vuoi no, fare... Io tu... appoggio Paola Saluzzi. Paola Saluzzi. Direttore, grazie, direttore, grazie. A Saluzzi al Quirinale. D'altronde dicono ci vuole una donna, e mettiamo Paola che Saluzzi. Meraviglia. Voi immaginate con tutti quei giardini, tutti i miei cani e gatti, sarebbero una meraviglia, ecco, una quindi meraviglia. Quando Scalfari verrà a trovarti non troverà più l'upupa presidenziale, no. L'upupa presidenziale, no. Ma troverà il gatto. Vabbè, io l'abbiamo rispolverato perché vi ricordate Dario Fo interpretato da Crozza 3 giorni fa, come sarebbero i discorsi di fine anno di Dario Fo il Quirinale, eh? Ed era il 1992 e che erano tutti fuori dall'Urafar che tiravano le munitù in quell'uomo pelato che sembrava maniato, ma voglio. E lui scappa, e va in Tunisia, e verrà col Kemal, e verrà da persino arrivato un uomo, un bassetto, bello, con gli ultimi neri, dice, via la pensata di alcuni della prima repubblica, che su me, che aveva il bigulon, che le chiamava tutti dal mattino alla sera, basta! Vabbè, questo Luca non so se l'avevi sentito, Crozza, sì, è straordinario. Allora, io, ma siete tornati sul caso Giannino, Luca, siete tornati sul caso Giannino? Beh sì, però in modo serio. In che senso in modo serio? Allora, la sindrome Giannino, quante persone mentono su cose più o meno importanti? Lo trovo in prima pagina di Vanity Fair. Perché siete tornati? Perché è una cosa che mi ha veramente ossessionato, mi ha molto colpito. Le bugie. Immedesimato nei panni di chi sta vicino a una persona e scopre improvvisamente, dopo magari anni, che una serie di cose non erano vere, è una sindrome, è una patologia vera. È perché voi avete intervistato Margherita, la moglie, proprio il giorno in cui succedeva poi il patatrac. Ecco. Sì, però questa volta invece sono interviste a persone che hanno vissuto con un bugiardo patologico, si chiama sindrome di Pinocchio. Ed è una cosa molto, molto, molto seria, molto grave, purtroppo. No, sì. Cioè, proprio così si chiama, sindrome di Pinocchio. Pinocchio. Sembra da ridere, invece è proprio così. Cioè, no, è assolutamente così. Cioè, sono persone che scoprono dopo anni che la persona che vanno accanto aveva una doppia vita. Quindi doppie famiglie. Sì. Ma poi la cosa terribile è che quando ti capita questa cosa pensi, mi ha mentito su questo e quindi... anche su quello, cioè cosa c'è di vero? Metti in dubbio tutto, certo. Sì. Paola, ti è capitato mai di... A voglia, te ne presento una lista di bugiardoni, altro che bugiardini. No, io dicevo a te di dire bugie, no? Diceva ai voglia, invece tu sempre no. Io ho bugie tante. Quando le dicevo da piccola... mio nonno mi diceva guarda che ti si allungherà il naso, sì, piccolo, e io mi facevo forza di questo naso piccolo e ogni tanto mi toccavo la punta, ricordo questo gesto, ma ero proprio bambina e ero un po' preoccupata perché onestamente la favola di Pinocchio non la si studia mai abbastanza. Sì, mi capita di dire bugie, non a questo livello, ma mi capita di dirle. No, tuttora. No, ma qui ci sono proprio delle storie incredibili che leggevo su Vanity Fair, cioè proprio di persone che hanno doppie vite, triple vite, persone magari che viaggiano, che hanno due famiglie. Ma soprattutto, non sono più bugie che vengono dette per coprire appunto una doppia vita, sono bugie gratuite, sono una sceneggiatura nuova per la loro vita. Sì, cioè proprio crearsi una vita alternativa. Insomma, voi prendete spunto ovviamente dalla vicenda di Oscar Giannino per parlare di questo. Vabbè, in realtà io qui mi devo anche fermare, ma vedo in copertina di Vanity Fair, finalmente una copertina di Vanity Fair che non fa gioire solo Paola Saluzzi. Insomma, vedo Jennifer Lawrence, e questo lo so anch'io chi è perché l'ho visto anch'io l'ultimo. Ma

sono molti anni che noi non facciamo politica industriale di questo tipo, e naturalmente un sindaco si trova in prima linea senza avere dietro quella appunto logistica politica che poi serve a dare risposte. Senta, tra l'altro lei a Roma ha già fatto un richiamo alla politica, al governo che verrà, credo oggi interverrà in direzione nazionale del partito, visto che lei è anche un dirigente del Partito Democratico. Le chiedo brutalmente se secondo lei Bersani ha chance di riuscire a formare una maggioranza, un nuovo governo? Ma io non credo che ci siano delle chance, però ha, credo, il diritto di provarci. Dubito che il Movimento 5 Stelle possa in qualche modo dare la possibilità a Bersani di formare il governo, però Bersani oggi chiede a noi di sostenerlo e noi lo sosterremo, su questo non c'è dubbio. E però se non ha chance bisogna già pensare a un piano B? L'unico piano B possibile, che poi è un po' contenuto anche per riagganciarmi alla storia della Bridgestone, è contenuto in quella lettera. Io per la prima volta ho scritto nel chiedere aiuto al governo anche a Beppe Grillo, oltre che a Bersani e a Monti. Ha scritto proprio una lettera? Eh beh, certo, il Movimento 5 Stelle adesso deve entrare in campo. Chi ha scritto? Di incontrarli per cominciare a mettere insieme azioni concrete per salvare questo paese, perché questo paese non si salva con i talk show televisivi o con internet o con il web o con tutte le altre questioni assai importanti, devo dire, che servono alla comunicazione politica. Noi adesso abbiamo bisogno di prendere delle decisioni e soprattutto in città come Bari, che come abbiamo avuto più volte modo di dire è una città che combatte la questione meridionale e tutti i limiti e anche i reali difetti della classe dirigente del sud, ha bisogno però d'aiuto del suo paese, perché in un momento del genere, se devo parlare col Giappone, non credo di essere ascoltato senza il ministro accanto, senza tutto il mio paese accanto. Però venendo più alla questione proprio meramente politica, lei ci ha già detto, secondo me Bersani non ha chance, ma non in quanto Bersani, ma in quanto i numeri non lo sostengono. Lei è stato il primo ad aprire alla possibilità di coinvolgere in tutti i modi possibili il Movimento 5 Stelle, anche facendo far scegliere a loro il premier, questo ovviamente secondo tutta la logica istituzionale del capo dello Stato, cioè aprendo la possibilità di un premier a 5 Stelle. Conferma che assolutamente sì, non ci vedo Beppe Grillo premier, per esempio. Per esempio c'è questa favola che Beppe Grillo, a causa di alcune condanne ricevute, non potrebbe sostenere l'incarico. Non è così, non credo che nessuna di queste per la loro regola che si sono dati, sì, non si può candidare in realtà, però sono reati di natura colposa per quello che so, quindi non hanno veramente nessuna ma sa che loro si sono dati questa regola, non può lui violare, ne sceglieranno un altro. Quindi lei vorrebbe pur di avere un governo sarebbe disposto noi dobbiamo avere un governo, perché non credo che sia possibile ragionare andiamo alle prossime elezioni come se si trattasse di andare a fare una gita, perché io vedo molti anche nel mio partito che dicono va bene, se non ci stanno andiamo a votare di nuovo, e non è così semplice, perché innanzitutto le prossime elezioni senza cambiare la legge elettorale rischiano di provocare un blocco analogo, e questo sarebbe una catastrofe, cioè il terzo governo non politico della Repubblica, insomma non lo sopporteremmo, e io che insomma ho fatto un mestiere prima di questo, ho fatto il magistrato, e so quanto pericolose possono essere queste tensioni politiche per l'ordine pubblico, ecco, sconsiglierei di andare al rischio di prossime elezioni senza cambiare la legge. Però se lei stesso dice che Bersani crede non ce la farà, cosa c'è? La terza via? La possibilità di fare un governo politico in alleanza con il Movimento 5 Stelle che indica il premier. Ma se non votano la fiducia, loro non vogliono votare la fiducia, cioè non vogliono accendere la macchina, girare loro la chiave. Loro accettano l'idea di indicare il premier o addirittura di formare il loro governo. Noi dovremmo avere la generosità, ma stiamo parlando ovviamente in seconda battuta, dovremmo avere la generosità di sostenere il loro governo con una maggioranza ampia da parte del PD, che peraltro darebbe garanzie ai mercati internazionali, a noi stessi, della bontà del governo autonomo formato dal Movimento 5 Stelle, proprio perché abbiamo la maggioranza in Parlamento. Senta, quanto pagate la vicenda Renzi? Me lo dica sinceramente. Non lo so, io non sono in grado di dire. Noi avremmo vinto con poche migliaia di voti in più, quindi è possibile che. per le dichiarazioni che sto ricevendo adesso. Moltissimi nostri elettori hanno detto di avere votato, per esempio, come è capitato nel Lazio, hanno votato Zingaretti e quindi assolutamente il PD. E poi nello stesso minuto hanno votato Grillo. Correnzi magari avrebbe votato. Non lo so, poteva andare diversamente, però onestamente ragionare in questi termini dopo che Bersani è stato scelto da 3,5 milioni di votanti alle primarie, sì, non ha senso. Ma Renzi oggi secondo lei come verrà accolto alla direzione del partito? Ma come veniamo accolti di solito noi sindaci un po' extravaganti dallo stato maggiore del PD, con una certa estraneità, normalmente. Beh, perché? Cioè, insomma, cioè, come dire, i sindaci sono questi animali strani che hanno a che fare. Dei gran rompiscatole, normalmente. Ah, rompiscatole. Noi non apparteniamo a quella, diciamo, a quel cerchio magico che di solito si forma attorno a ogni leader. Ho capito, ma cioè, dall'idea di questo partito così che si riunisce allora, come dice Renzi, nei caminetti a Roma e poi ci sono quelli che lavorano. Cioè no, ma non credo che non si riunisce affatto nei caminetti. Il PD ha il suo leader, ha i suoi collaboratori e poi la direzione. L'unico luogo dove ci si riunisce, io non ho mai partecipato a nessun caminetto e non credo che ci siano stati caminetti da quando Bersani è segretario. No, questo sì, ma quando lei va in direzione cosa sente? Profumo di, non so, stantio, un po' polveroso? Le devo dire, io ho l'impressione che proprio tutta un'idea del mondo che in qualche modo ovviamente fa parte della storia di una generazione si stia esaurendo e adesso entriamo in un futuro che non conosciamo. Siamo ovviamente un tipo come Renzi che è molto moderno ma è molto anche, come posso dire, pieno di entusiasmo, ha probabilmente da questo punto di vista la capacità di avere meno timore delle innovazioni, ecco. Ma questa è la vera differenza. Sarà lui secondo lei il premier tra un 6 mesi se si rivolge? Beh, leggo su un'intervista sul Corriere di oggi molto buona da parte di Matteo che dice: io non sono di questa partita adesso, se dovessi rientrare in campo bisogna rifare le primarie. E non è proprio un'intervista, se pare dichiarazioni, sa, questi retroscena dei giornali. So. Beh, comunque però credo che lui debba rifare le primarie per fare il leader del movimento. Certo. Insomma, non... L'ultima notizia prima di concludere, l'ultima domanda è questa: beh, sarà contento Michele Emiliano, almeno pare scongiurato anche da Bersani, tutto, ma con Berlusconi no. Ecco, lei ha detto: io se si fa con Berlusconi esco dal partito, quindi sarà contento? No, io vabbè, lo davo per scontato perché tutto il partito la pensa così, non è una decisione di Bersani. Cioè, noi abbiamo fatto di tutto per togliere all'Italia questo male che è il berlusconismo. Ovviamente dobbiamo insistere su questa strada fino a che ovviamente finiranno tutte le promesse. Io a un certo punto, scherzando, avevo detto a Bersani: ma lanciamo l'idea che tutti i sindaci del PD revocano tutte le multe fatte agli automobilisti negli ultimi 3 anni e vediamo come va. Naturalmente Bersani mi ha mandato al diavolo, però è chiaro che quando la politica diventa, insomma, si gioca così, significa che c'è qualche cosa che non va. E quindi noi abbiamo combattuto questo fenomeno e adesso non è possibile trovare punti d'intesa. No, perché pare che Berlusconi voglia chiamarlo, Bersani, sempre dal Corriere, sia lì a dire... Ma Berlusconi sta chiamando tutti, per quel che mi risulta. Sta chiamando tutti in che senso? Cioè anche sta Beppe chiamando Grillo. Tutti per... No, a me no, ovviamente, perché non ho nessun ruolo, ma sta chiamando tutti i leader del centro-sinistra per convincerli a fare un accordo di governo. Devo dire però che lo fa anche, credo, nell'interesse del paese dal suo punto di vista. No, certo, non ci vedo nulla di male. Va bene, intanto vedremo come va a finire anche sulla vicenda, soprattutto Bridgestone. Intanto la ringrazio, sindaco, per essere stato con noi. Io ringrazio voi per avermi concesso di parlare della vicenda della Bridgestone. Sicuramente una vicenda che seguiremo. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, del Partito Democratico. Ora noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità del meteo, poi torniamo su questa vicenda. Allora, che voglio porre a voi, ascoltatori, 800 24 00 24, c'è la vicenda delle questioni della presunta compravendita del senatore De Gregorio, di un'altra indagine a Roma che coinvolgerebbe anche le vicende, bisogna usare il condizionale perché c'è un giallo, Scilipoti e Razzi sarà nostro ospite. Allora, questa storia di comprare tra virgolette i voti o i senatori e questa vicenda del vincolo di mandato: secondo Costituzione non c'è vincolo di mandato, quindi un parlamentare può cambiare opinione durante la legislatura, non per questo deve dimettersi, non per questo non può farlo. È giusto? Andrebbe cambiata la Costituzione? Vanno cacciati a calci quelli che cambiano idea, come dice Beppe Grillo? 24 mattino. Allora, eccoci qua alle 8:36 minuti. Questo tema che regna nella politica anche sui cosiddetti cambi di casacca. secca da parte dei parlamentari che vengono eletti e poi cambiano partito durante la legislatura. L'articolo 67 della Costituzione italiana, che dobbiamo tenere a mente, recita così: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Vuol dire, tradotto in maniera brutale e grezza, può cambiare partito e nessuno gli può dire nulla. Io voglio salutare il senatore Antonio Razzi. Buongiorno senatore, eccoci qua. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Popolo della Libertà, ma ex dell'Italia dei Valori, insomma la sua vicenda è abbastanza nota. Passata è passata, acqua passata non macina più mulino. Com'è che è questa acqua? È un detto, no? Sì. Quando passa l'acqua, lo stesso mulino non può macinare più la stessa corrente d'acqua. Ah, vabbè, non può macinare più la stessa farina che fa, vabbè, insomma, è passata l'acqua al mulino. Allora, mi lasci salutare, senatore, anche il professor Salvatore Curreri, che insegna diritto costituzionale a Enna, all'Università Cori. Buongiorno, professor Curreri, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, senatore Razzi, intanto la domanda è questa: lei non è indagato, c'è un'indagine conoscitiva della Procura di Roma sulla vicenda sua e di Scilipoti, lei è tranquillo? Io sono tranquillissimo, a me non mi serve nemmeno avvocato, io ci vado tranquillo, se mi chiamano io vado, tanto non ho preso un centesimo, non c'è niente di io che devo dichiarare. Cioè, quindi lei non è passato da una parte all'altra perché diciamo comprato, si parlò del mutuo, si parlò del senso di responsabilità per la nazione e per gli italiani. Questo è il motivo che l'ha fatta passare da un partito all'altro. Perché ce stava creando un nuovo Noi Sud, come si chiamava, un nuovo progetto politico che era interessante, e poi è finito anche quello. Però sa, dal punto di vista della Costituzione tutto è a norma, ma che ne pensa di Beppe Grillo, che dice: io li caccerei a calci, quelli dal Movimento, per esempio, quelli che cambiano casacca? Lui, diciamo, lo dice forse per timore che i suoi non fanno altrettanto, non lo so, però prima deve cambiare la Costituzione, dopodiché può dire, può parlare e dire di tutto. Sì, certo, no, ma lui dice, lui può... L'articolo della Costituzione, quell'articolo sì. che prima lei ha citato. Sì, sì, l'articolo 67, però questo dal punto di vista, infatti io ho premesso, dal punto di vista della legge della Costituzione, quindi la legge suprema, non c'è nulla da dire. Però Beppe Grillo è anche libero di poterli cacciare dal suo movimento, no? Così... Oh, vabbè, ma una volta eletti lo caccio dal suo movimento. Però se ne va a un'altra parte o va al gruppo misto, non è che se lo può cacciare dal Parlamento. No, questo sicuramente. Professor Curreri, lei come vede, al di là delle indagini adesso, sia a Napoli di De Gregorio, che è una vicenda diversa, sia le indagini conoscitive di Razzi e Scilipoti, al di là delle carte, insomma, Razzi ci sta dicendo: io non ho nulla da temere, l'ho fatto per senso di responsabilità. C'è questa questione che viene posta del vincolo di mandato, che non è previsto dalla Costituzione, e quindi è tutta posto così, oppure bisognerebbe anche cambiarla questa Costituzione? No, forse cambiare la Costituzione è eccessivo, però certamente si potrebbe attuare in maniera diversa. Voglio dire, l'articolo 67 della Costituzione è un articolo che garantisce il parlamentare, ma la Costituzione va letta tutta, a cominciare dall'articolo 1 della Costituzione, che attribuisce la sovranità al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti da essa previsti, e l'articolo 49, che ci dice che i cittadini partecipano alla vita politica della nazione attraverso i partiti. Quindi la Costituzione disegna un circuito di rappresentanza politica che non parte dall'alto e va verso il basso, ma parte dal basso, dagli elettori che attraverso i partiti, attraverso i loro rappresentanti, esprimono la loro sovranità popolare. Quando un parlamentare interrompe questo circuito perché passa da un gruppo ad un altro, o addirittura da uno schieramento ad un altro, evidentemente tradisce questo mandato, e questo gli elettori lo sanno perfettamente, perché si chiedono a questo punto che senso ha andare a votare se poi il parlamentare che io ho eletto, certo, può fare tranquillamente quello però che il vuole. Parlamentare dice: l'unico modo che hanno per punirmi è quello democratico di non rivotarmi, ecco, non è che si può fare altre cose. Passano 5 anni innanzitutto, in questi 5 anni noi abbiamo falsato secondo me la rappresentanza politica, perché è una rappresentanza di partito, di orientamento politico, perché per questo gli elettori votano. Certamente il parlamentare non può perdere il seggio, e questa è una garanzia diciamo democratica, perché altrimenti noi trasformeremmo i parlamentari in tanti soldatini che obbediscono al capo di partito, e in questo senso, come dire, la posizione di Grillo è abbastanza preoccupante. Però da questo a dire che il parlamentare è completamente libero di fare tutto quello che vuole, e quindi ce può passa, tranquillamente infischiarsene del mandato ricevuto, mi pare un'interpretazione esagerata, abnorme e fuori contesto. È interessante questo. Senatore Razzi, ha capito, lei formalmente certo può fare quello che vuole perché la Costituzione glielo concede, ma dice il professor Curreri in qualche modo tradisce il senso, lo spirito del rapporto di fiducia che l'elettore le ha dato votandolo per un partito, andando da un'altra parte. Poi, per carità, il seggio non glielo toglie nessuno, però ci sono anche altre questioni, no? Ma vedi, il professore ha pienamente ragione di quello che dice, ma vorrei ricordare al professore che io, il sottoscritto, è stato eletto con le preferenze e eletto dai cittadini. E io per un partito, l'Italia dei Valori. L'Italia dei eletto con le preferenze che hanno scritto Antonio Razzi, tutti i miei più stretti collaboratori. Sapevano di quello che soffrivo io stando in ma sin dalla mia rielezione al 2008. I collaboratori, gli elettori no, però gli elettori mica la conoscevano. Quanti voti ha preso lei? Quante preferenze ha preso? 3.005. Ecco, questi 3.005 mica sapevano che lei era insoddisfatto, avranno votato un partito. Ma tutti i più stretti collaboratori, che erano almeno quei 30-40 persone che io vedevo quasi tutti i giorni e che loro mi hanno aiutato. Ma non sono quelli che l'hanno portata in Parlamento, cioè non sono quelli che l'hanno eletta, senatore Razzi, non sono i suoi collaboratori che l'hanno eletta, sono gli elettori. Cioè capisce lei? Tutti gli altri. E guarda che ho ricevuto centinaia di posta elettronica che si hanno complimentato dicendo noi abbiamo dato il voto a te e di quello che dice hai fatto bene. Sì, hai fatto bene. Ho saputo l'insofferenza che avevi dentro quel partito. Vabbè, cioè le persone che le hanno detto quando le ha cambiato. No, chiariamo una cosa, perché lei ha detto con le preferenze, la gente mi scrive, ma come con le preferenze? Il senatore Razzi è stato eletto all'estero, e all'estero, le circoscrizioni estere, bisognava scrivere Antonio Razzi, come bisognava scrivere altre persone. Professor Curreri, insomma, dice Razzi qua, io manifestavo già tutti i miei dubbi, le mie perplessità a stare all'interno di un partito, tutti lo sapevano, i miei collaboratori lo sapevano, ma qui è la questione del rapporto con gli elettori che non vuole capire, ecco. Premesso che ovviamente la mia è una considerazione di carattere generale, quindi con nulla di personale contro certo. il senatore Razzi. No, il problema è che quando l'elettore va a votare non sceglie soltanto la persona, sceglie anche il partito, voglio dire, è il partito che ti candida, tu ti candidi per un partito condividendo quel programma politico, quindi non è che c'è un rapporto immediato nel nostro sistema elettorale tra eletti ed elettori che scavalca il partito, è un rapporto mediato dal partito, perché quando, ripeto, tu offri la tua candidatura condividi gli orientamenti del partito, altrimenti il partito ovviamente nemmeno ti candida. Dico a maggior ragione in un sistema elettorale come il nostro, in cui le liste sono bloccate e quindi praticamente è il partito che decide se eleggerti o meno. Quindi quello che gli eletti ricevono non è un mandato personale, sì, perché ti scelgo perché sei la migliore persona, perché hai le migliori capacità. È un mandato legato al partito, è un mandato di appartenenza politica, legato a quella lista, a quel simbolo. Ma infatti è da qui che voglio ripartire. Orientamento politico. Eccoci qua. Senatore Razzi, lei credo sia in Svizzera in questo momento, no? In attesa dell'insediamento delle Camere. Allora, non avrà visto ieri Ballarò, Maurizio Crozza, o l'ha visto? No, non l'ho visto. Non l'ha vista. È perché Crozza l'ha imitata. Crozza l'ha imitata. Le faccio le faccio sentire cosa ha detto Crozza. Sentite Crozza. Senti. Ciao, sono Razzi. Mi sono occupato tanti anni dei cazzi miei e quindi ora vorrei continuare, caro amico, ancora occuparmi dei cazzi miei. Te lo dico da amico perché sono coerente. Mi occuperò sempre dei cazzi. Razzi, questo ha detto. Perché lei l'ha detto in una famosa intervista intercettata, rubata un po' da un collega. Cioè, dice, bisogna occuparsi dei cazzi tuoi. No, io ringrazio Crozza per l'invitazione. Anzi, grazie a lui mi ha dato la possibilità di essere stato rieletto. Ma volevo ritornare. Addirittura, cioè, Crozza l'ha fatta rieletto. Mi ha fatto la pubblicità e tutti dopo mi conoscevano. Ah, poi ecco. Volevo ricordare al professore che ha pienamente ragione quello di cambiare l'articolo che prima lei ha citato, il 67, perché è giusto che uno che viene eletto, come adesso in Italia il sistema questo che è piazzato e uno vota al partito, ed è giusto che non deve cambiare. Perché Ma lo dice lei che ha cambiato. Del cittadino ha scelto il partito e non ho capito. Ma Razzi, me lo dice lei che ha cambiato partito? Mi dice giusto che uno non cambi partito? Ma io è differente perché io sono stato eletto con le preferenze e non scelto. Ma ho capito, ma non è ma il professore le sta dicendo che se uno anche scrive Razzi vota Italia dei Valori in questo caso, cioè non ha votato. A me mi ha votato gente del PDL che me l'ha telefonato da Lugano. E mi ha detto: guarda, tu lo sai che noi siamo di quel partito, però te lo diamo a te alla Camera, ma al Senato noi lo diamo al PDL. Perché noi votiamo Razzi, cioè volevano votare lei. Però senta, questa storia dei cazzi miei, lei l'ha detta, cioè se erano bisogna fare i cazzi miei, oppure si parlava di questo mutuo. Lei davvero esclude, cioè lei non ha avuto nessun tipo di pressioni da parte per passare dall'altra parte? Assolutamente niente di niente. Ma allora le interviste in cui lei diceva c'ho il mutuo da pagare, perché... io ho detto questo, dico, pur che io ho un mutuo da pagare non cambio, capito? E non accetto niente. E la questione la questione dei cazzi miei, cioè bisogna farmi i cazzi. Quello è stato un confidente, diciamo, come uno parla al bar, perché io se ero davanti a una telecamera mi sono vergognato e ho chiesto scusa ai cittadini italiani di quelle parolacce, perché nella mia vita non era nel senso della parolaccia, dai, grazie, non prendiamoci, era il senso di dire sono qui a farmi fatti miei, allora fatti miei. Non ho mai parlato così sporco, e quello ho insegnato anche ai miei figli. No, ma ho capito, ma Razzi, non svii sulla questione, non è la parolaccia, poteva dire sono qui a farmi i fatti miei, è il senso di dire che era lì per motivi personali, non gliene fregava dell'Italia, ma per motivi suoi. Ma guarda, io credo che tutti i cittadini, ma anche lei sicuramente, sì. vuole arrivare a prendere la pensione, io non credo che io volevo sentire un cittadino che dice a me la pensione non lo voglio prendere, lo regala allo Stato. Che me ne dica uno che viene così. Quindi allora, lei per il vitalizio, lei voleva il vitalizio. Io ripeto. Come tutti. Ma tutti, me ne dica uno che non lo vuole, me lo dica uno. Lei è sicuro che lavora alla radio, lavora alla televisione, sicuramente anche lei aspira a quello. Ringraziando sempre il Signore che uno ci arriva all'età. Speriamo di sì, tocco ferro. Professor Curreri, qui la questione, al di là della questione personale, c'è anche Beppe Grillo che dice temo il 15%. Di tra virgolette tradimenti, poi lo si chiami come si vuole, c'è il tradimento in politica, anche questa è una questione. Professor Curreri, che succederà nel prossimo Parlamento secondo lei? Ma secondo me questa legislatura nata da sotto il segno del 17, che proprio non è un numero fortunato, diciamo, avrà vita breve. Qui il problema è sfruttare questo blocco per fare finalmente le riforme di cui da tanto tempo si parla e che non sono state mai fatte, visto che è una legislatura che non potrà che cambiare alcune regole, visto che si andrà a votare tra breve, sfruttiamo questi mesi per cercare di introdurre riforme anche in tema di transfughismo parlamentare, perché non è nemmeno necessario cambiare l'articolo 67, anzi personalmente credo che non vada nemmeno cambiato. Piuttosto, come dicevo prima, si tratta di darne una diversa interpretazione, un'interpretazione secondo me più compatibile col principio democratico. Allora facciamo alcune proposte, così diamo un contenuto anche, diciamo, costruttivo. Cominciamo per esempio a proporre ai partiti di non candidare più i parlamentari che cambiano casacca, così si fa un vincolo reciproco e questo fenomeno si potrebbe azzerare. I gruppi parlamentari devono corrispondere ai partiti politici, finiamola di costituire gruppi che non sono espressione di identità, che si sono presentati dinanzi agli elettori. Io chiamo qui dalla Sicilia, noi qui già nei primi 3-4 mesi di ci sono già state gente che ha cambiato. 8 deputati che hanno costituito due gruppi completamente diversi rispetto a quelli alle liste che sì, si sono poi presentati. Lì c'è la questione anche prendere i soldi, prendere i filatori. No, guardi, pochi giorni fa è uscito sui giornali un trafiletto in cui uno studio legale di Milano ha scritto, si riportava una lettera scritta a tutti i parlamentari: se vuoi cambiare casacca ti aiutiamo, ti aiutiamo. Siamo arrivati all'industria del trasfugismo. Questo sì, mi lasci dare un ascoltatore, Danilo da Brescia, buongiorno Danilo, dica. Danilo, è caduto. Fabrizio da Roma, buongiorno. Niente. Sì, buongiorno. Dica. Allora, io chiamavo un attimo per condividere in parte ciò che dice il professore, chiamavo soprattutto per fare in merito all'articolo 67 che fu introdotto proprio per evitare che ciò che succede nel fascismo, insomma, in cui partito decideva le linee, un singolo parlamentare non era libero di andare contro. È vero che è stato abusato in questi anni, però è anche vero che io come parlamentare, se voglio essere libero di non votare, ma lei lo difende, ma non ci faccia scusi la storia. Lo difendo perché come singolo parlamentare voglio essere libero di votare. Chiaramente dovrei seguire le linee guida del partito, ma singoli provvedimenti che magari esulano dal programma principale del partito può anche votare in maniera diversa. Va bene, lei lo difende, grazie Fabrizio. Ho 30 secondi per chiudere. Lei, Razzi, allora è tutto tranquillo? Se la chiama la procura va tutto a posto, è sereno? Io non mi serve nemmeno l'avvocato, tanto io non ho fatto niente e non ho avuto niente e non ho fatto niente. Niente, io ho fatto solo il mio dovere e basta. Va bene, la ringrazio, senatore Antonio Razzi, il Popolo della Libertà, così come Salvatore Curreri, docente di diritto costituzionale all'Università Core di Enna. Seguiteci su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 mattino, la trasmissione, ritrovate anche tutto sul sito radio24.it. E allora da tutti, oggi li cito, Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Valentina Magri, Peter Bescapè, da tutti questi l'appuntamento a domani alle 6:30. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucambo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.